Libia, la sai tu lì, quanto dura? Non lo so, ma la posso anche modificare io, non c'è da niente. Cosa modifichi? La batteria? La vedo più grossa, no? Forse se la media dura da 2002 e dura più di 4 ore. Non è più piccolino, sono motori piccolini, no? Che sono motori grandi. Ma fammi capire, sono batterie in parallelo. Ma non le puoi costruire tu invece di ordinata, non se le puoi costruire, le compri di quella, di quelle ricaricabili e le riunisci. Sono grosse queste, sono torcioni, sono abituali, sono sei torcioni, sono. C'è che tu goccia? Ah, non lo so, d'accordo, ma sono sei torcioni, sono. Ma un sito dove li vedo, l'hai trovato? L'ho trovato per foto, volevo cambiare con le batterie. Scusa? Per il momento sono nuove, nuove ancora. Ah, vanno bene quindi quelle che hai. È una pacca nuova, nuova, ma è usata. L'ho comprata, neanche io, me l'hanno regalata a me. Mi è arrivato il pacco a casa, io neanche ne sapevo, è arrivato il postino, dice c'è un pacco per lì. Cosa gli ho detto? Io non ho dirato niente. Dice che ho dirato, dice i tali e tali. Sono andato e ho aperto il pacco, ho visto che era una banca. Te la faccio vedere già. Ah, io non so che cosa stavo pensando, te l'avessi regalata, che però c'era da comprare la batteria perché non funzionava, era la stessa batteria. Cazzo, senti, era scatolata, ma ora così. La faccio vedere, te lo sto dicendo, l'ho aperta il 4 giorno. Te la faccio vedere, guarda, te la porto a casa, cioè, te la porto a casa, vieni a casa e te la faccio vedere, non mi costa niente a me. È nuova, nuova, era scatolata, mi è arrivato il pacco scatolato, neanche sapevo io che era una cosa del genere, la verità. Non avevo capito io. Ah, quindi ti hanno fatto un regalo, là, via. Non hai visto. Beh, è sempre ben accetto da quando arrivano queste cose dal cielo. E beh, a me è un bel elicottero, non me lo puoi far regalare da questo qui. Non lo so, mi cavo chi lo io. Io mi ha chiesto uno di bacca, figurati. A me è una cosa che mi piaceva, gli ho detto, guarda, dice, cosa ti piace a te? Gli ho detto, una cosa che facciamo a Coccondo, gli ho detto. Un bel apparecchio cinese, questo e quello e quell'altro. Gli ho detto, e basta. Invece mi è arrivata la barca, tanto adesso a voi voglio. Mi dice, ti è arrivato un pacco, mi ha detto, per te. Me l'ha portato a casa, questo è per te. Cazzo, gli ho detto, ma cazzo è questa cosa lunga, 1,20 m? E non potrebbe essere un baracchino. Invece era una barca, cazzo, in scatolata. Che materiale è? Plastica è, credo che sia. Mica è legno, no? Oh, Gianni! Eh? Ma batterie sono rimaste dell'elicottero per caso, c'è qualche batteria? Sì. Non vedo. Almeno me la dai. Sì, adesso devo cercare. Se la trovo già se la do. C'è un famoso elicottero ancora, accende, vola, ma non... Praticamente la batteria non c'ha più la potenza, capito, per far andare i motorini. Stare ma poi muore, cioè come se avesse il motore spompato. Ma io trovo la mia vita. Io vi lascio, buona serata, buon proseguimento. No, ce l'ho con quella, anche quella era morta la batteria, mi ha fatto 2 giorni e poi è morta. Ciao Marco, ci sentiamo, dai. Buonanotte. Ciao Marco, buonanotte. Come sapevo per quella cosa? Quella è chiaro di subito. Io vengo subito. E io? Ah, grazie. Avanti, buon po'. E Marco, non c'è problema. Marco. Dove è la lasciare? Simona, Simona! Antone, dimmi. Che serata, che serata. Che sera, sera. Ah, io, Antonio, dimmi che devo andare. Se Simona mi saluta. Simona! Questa aspetta qua chi. Aveva dato qualche colpo di roccio Simone. Riprendi Luca. Capito, le dovrei averle, almeno due le devo avere, mi sa. Ma poi aveva tutto a caricato. Infatti la tua carica, quella era tutto su, però non aveva più potenza. Ma probabilmente era il motore. Ma no, il motore è vaga. Ne avrò due o tre di quelle batterie. Ma bisogna sapere se fanno bene, perché lo sai che sono bilanciate con il peso. Non ti preoccupare, io me la raggio io. Adesso vedo, se ne trovo già tre dopo. Più o meno dovrei sapere dove sono. Se non me l'hai pulsato, dobbiamo lì. Che bella. E capretto. E via, capretto, capretto. Mi sa che c'ho anche il caricabatterie di una. Tutto completo. Andate a vedere quei visita a mercato. Cosa? I ricotti. No, io ho visto quelli da Libellula. Quelli di Libellula. No, non Libellula, quello... Guarda che rimane, sai dove? Scendendo la strada di Alghiera, poi ci discende, no, qua la rotatoria, lì. Sole rosso, cavolo, ce n'è uno, già, vabbè, lo 70 euro cosa, un bel grande, tipo quello c'è vinto ma più grande, ma bello, eh. È che non voglio dire sempre di comparato. Ma non tengono le batterie, cazzo, durano troppo poco. Però sono batterie a litio. Ricordiamo Serrato, ci abbiamo messo più a arrivare che a finire la batteria. Ma è bello, grande, è bello, bello veramente. Ma sono quelli che hanno la carrozzeria molle molle. Sono dura. Però vado a vederlo. Mi piace, domani me lo compare io. Tanto io è bello grande, bello, bello veramente. E poi si vede la cavetteria più grossa. E niente. Non sono belli, belli, belli. E mezzo di truppo. Allora il mio mi dispiace, è nuovo, non è che sia rotto, è vecchio. Praticamente me le avevi date tu, le eliche, le modificate. Ce l'ho dato io le eliche. Le modificate, le ho dovute appiattire dove c'era, diciamo, dove le inserisci, no, lì. Le ho dovute appiattire col coltello perché non passavano. Poi tagliate, giuste come le altre. Andiamo a vola. Sono i ricotti che come ci cadono si spaccano subito. Quello lì è bello prendere e metterlo sopra mobile, buh, senza duccarlo. È bello perché mi piace le ricotti, lo riferisce proprio più dell'aereo, mi piace. Idem. L'elicottero non mi piacciono quelli scritti, ma mi piacciono quelli, specialmente quelli dei carabinieri, cazzo che hanno i biaggini, quelli dei carabinieri della polizia, li angustami. Allora io, quando è? 2 anni fa, venuta a Sonia qua, mi ho accompagnato a Olbia, lì al porto, c'era una marca per entrare a casa, e c'era questo tir, con sopra l'elicottero della polizia, nuovo, e sai lì che era. Questo lo portano forse il continente, boh. Deve essere qualche ditta che l'ha fatto, lo stiamo spedendo. Sono qui. Sono nato, sì, Marco Condo. Sono rientrato. E stavo dando roba a mamma. E poi i modellisti fanno cose folli. Uno ha fatto Goldrick radiocomandato, no, col disco, un po' pacchiano, ma l'ha fatto. Uno ha fatto invece un B-52 radiocomandato, fatto da lui, apertura alare 4 metri. Devo vedere questo mostro come si è sollevato la terra, è incredibile. E ci credo. Io ho un amico che li fa, capito? Costruisce sia gli elicotteri che gli aerei. È molto bravo, e ripittura li fa anche i modellini di barche, ha fatto un veliero che si accendono tutte le luci, ci sono tutto l'equipaggio, si chiudere tutto brutto, capito? Stai facendo le luci dentro, tutto fatto in miniatura, ma fatto a regola d'arte, ci ha messo un 3 o 4 anni a finirla tutta. Ascolta, ti ricordi quel programma in televisione dove c'erano delle gare di combattimento, facevano dei robot a combattimento che avevano, che ne so, trapani per bucare, lame per tagliare, presse per schiacciare gli avversari, ti ricordi? No, non l'ho mai visto, Marco, dico la verità, però ce ne sono di questi voti lì. Io guarda, ho visto le ruspe funzionando su YouTube. Praticamente telecomandate, prendono la tela, la carica sul camion, il camion parte, suona, c'ha le luci, poi attacca il ribaltabile e scarica. Guarda, non mi ricordo come si chiamava, praticamente mettono questi robot radiocomandati in un'arena, sono tipo macchinette, no macchine, e certi hanno addirittura delle mole, cioè hanno un braccetto con una mola che tagliano la carrozzeria dell'avversario finché non colpiscono l'elettronica, capito? Tipo quelle battaglie che fanno in America con le macchine. Ma bellini! Certi hanno invece tipo palameccaniche, lì solleva un braccio per ribaltare l'avversario, no? Che una volta che è ribaltato non si può più alzare. Allora il più furbo aveva fatto un veicolo che anche se lo ribalti funziona in ogni modo, no? Le ruote toccano sia da una parte che dall'altra. Guarda, allucinante. Hanno fatto vedere in un telefilm quel tipo di sport e uno sai che cosa ha messo come arma sulla sua macchinetta? Ci ha messo un laser, ha puntato un punto debole dell'avversario e l'ha fatto esplodere. Allucinante. Ma così distruggesse i modellini? Sì, ma loro se li distruggono, se li distruggono. Proprio l'avversario che viene colpito viene o tagliato o spaccato in due, di tutto fanno, schiacciato, bucato addirittura. Certi hanno una specie di tenaglia a punta, no? Che come gli becca il modellino glielo trapassa da parte a parte. Guarda, se trovo lo sport te lo dico qual è. Sì, ho capito più o meno come funziona. C'è uno sport simile in America, l'ho fatto vedere ad IMAX, praticamente si distruggono le macchine e se le rendono quasi inservibili e addirittura si fanno anche male a volte. Sì, quello delle macchine, però lì praticamente assomigliano poco a macchine, sembrano dei piccoli carri armati, sono tutti di metallo, ricoperti di lamiera, no? C'hanno mille tipi di armi. Bello, lo davano in TV, non mi ricordo su che canale, forse Italia 1. Non ho mai seguito, sinceramente. Luca. Se ne trovi, proviamo. Se non va bene, tra intorno. Dunque, quella mi hai inviato tu, praticamente è più grande di quella della sua originale, perché la sua originale è tra giusta dentro, no? Sotto. Poi ci mette la carena davanti, invece con la tua no, l'ho avuto senza carena. Vabbè, comunque volavo lo stesso, Diciamo, vediamo un po' di problema perché il bilanciamento è diverso, comunque sarà lo stesso. L'originale quanti centimetri è meno male? L'ho buttata perché la stavo aprendo, una puzza, mamma mia, per me se riuscivo a fare qualcosa, una puzza ce l'ho buttata. E c'è acido, ma fosse. No, non è acido, una puzza, mamma mia. C'è cosa sei buono in cinese. Un giorno andiamo a quello che vende i modellini in via Marsizia. Se riesco. Non mi richiama il comune, lavoro. Speriamo. Mi compro quella a motore a scoppio. E quello mi sta sempre appresso. Io li ho visti con i motori a scoppio e cavano candela, tutto canto. Perché a volte lo metti in moto. Io lo tengo conto. Una volta che lui vola, dopo lo pulisco, no? Ho smontato, lo pulisco così è pronto per la prossima volta, che o poi mi compro anche qualche candelabro di cambio e faccio mano a mano, uso la candela, poi la cambio, ora la pulisco, faccio così, mi alterno, no? No, troppo veramente c'è troppo. Io li vedo su YouTube, mamma mia, va. Quelli lì sono, bisogna avere tutta una tastatura particolare, tutta in miniatura. C'era uno che c'aveva il banco, proprio lo metteva su questo banco, lo smontava, puliva la candela, regolava il minimo, lo metteva in moto e le regolava il minimo, ne faceva la messa a punto. Ehi, vabbè, nessuno l'ha temporato già, faccio prova un'altra volta ancora. Adesso prima incolonato, passati una lametta. Quindi chi consolina si è ricoverato. Mi avete chiamato? No, stavo parlando di chi consolina, si dice che ha avuto un infarto dal fumo. Oh, non so chi sia, però mi dispiace. Quello che è fissato con Renato Zero, che lo imita, ce l'ha presente, che fa dei programmi televisivi. Ma tipo Tele G, Antenna 1? Sì. Vabbè, capita. Signori, dai, vi saluto del tutto perché qua sono andato indietro tra camera, cucina, quindi da. Ci sentiamo? Coletti definitivo, bye bye. Ciao, ci sentiamo. Avanti, Luca. Porta chi tocca. Ciao Marco, ci sentiamo, stammi bene, alle prossime. Buona notte, Zé. Quindi Ari, quando andiamo a provarla, tu la fai andare, io te la fotografo. E la fai niente. Adesso il 23 va dalla madre, lui. Quindi quando rientra a Sassari, che andiamo un sabato, una domenica, andiamo a un lago di Bala, te la proviamo insieme alla sua, e così ti diverti. E lì c'è la cinghiale, lo sai? Lo so, infatti io non so cosa è la verità, lo provo, sarò uno schiappo in confronto a lui, però piano piano imparo a utilizzarlo. Sì, ma noi avevo, ci sono 4 euro. Una mattina siamo andati, quando avevo proprio la passione morbosa della fotografia, siamo andati alle 5 di mattina con questo amico mio, abbiamo messo le canne da pesca dentro e siamo andati al lago di Baras per fotografare i cinghiali bevendo nel lago. Ma se qua ce n'era pieno, c'era cinghiali tutto qua, dove ho fatto la fotografia. E non si può pescare anche cinghiali. No, poi siamo andati al mare a pescare lì, a Portoferro, però per dirti, era pieno, adesso non so se sia ancora così, se abbiamo abbattuti o cosa, però per dire. Ah, cioè va bene, allora, c'è proprio per questo. Quando abbiamo già visto, già così ti fai le fotografie. Oggi qui è una bella giornata era per fare le foto giù a Uso, su a Uso dove la verità. E ha vinto, dicevo, va tutto oggi. Io invece sono andato in piazza pensando di fare le fotografie in Piazza d'Italia, che un amico continentale mi ha chiesto di farla, invece era pieno di bancarelle, non si poteva nulla. L'ho fatta con le bancarelle, ma non è la stessa cosa. Lo so, tra poco ci sono le bancarelle, mi ricordo se è proprio se lo diavolo o Alghero, ma non mi ricordo, non l'ho visto, cazzo, forse il giornale l'ho visto, ieri ci sono le bancarelle e per Natale, cazzo, non mi ricordo adesso dove cavolo ero. In piazza ci sono lì, ci sono al Carrefour, ce ne sono da tutte le parti. E c'era di tutto, vedevano patatesi, di tutto. Adesso pezzini, la faccio anche la bancarella, mi riporto un po' di roba che ho io in garage e me la faccio fuori. Che è roba di essere lì, gli dirà che manca. Io dico che tu di quelli a oggi 3-4 euro me li vendo ai senegalesi, già se li vedete a Caudirà in Senegal li usano quelli loro ancora. Che cosa? Di questi ricevitori digitali, cioè digitali, cioè alla voce ci sono, perché altro quella volta, capito? Due di quelli lì li faccio fuori e poi boh, cosa posso fare? C'ho piatte, un amplificatore, cosa me ne posso? Me ne posso, non posso neanche usare quali roba io, perché se uso l'amplificatore e piatte deve stare quel di sotto. Che amplificatore c'hai? Però 50 watt sono i finali. Ehi, ma che marca è? Un Mara? No, un paio mi sembra che sono, mi ricordo male. Poi giù c'è un pescatore grosso, di quelli grossi, neri, che è un telefunker, se lo vuoi sapere. Ah, telefunker. Telefunker, sì, nero sopra e bianco davanti, cioè bianco, colore metallizzato, va. Utilizzato cosa va a volare, per casa. Ci sono anche valvolari. Sì, ma non ne ho di qui, aspetta, chi vuole entrare? Ce l'ho, ma non per il fiato di baracchino naturalmente, il fiato è impianto stereo. Ho capito. Ce l'ho 7 anni qua. Tu figurati, visto che abitavo al centro storico, l'avevo riparato a coso, il CB che abitava a coso, avevo dato quegli UHF, detto, devi trovare che te l'ho messo a posto, non c'è mai dovuto ritirarselo, sono passati più di 5 anni, io te l'ho fatto l'altra volta e non c'è più venuto. Non mi interessa più. Avete parlato di te? Ho detto non interessa più. È sensato sì, Danilo lì, quello che fa la baracchina. Danilo. Danilo, Lasu. Brutto, magone di Ussica. Ma che cazzo di fine avevi fatto? Ebbene, un po'. Cazzo, ci vai vivo ogni tanto già, meno male. Non ti ho più visto, non hai sentito, a me non mi ha preso il telefonato per dire vivo so, cazzo, riesci a mangiarci un salsiccione, una canna di vino, di quello buono sfumante, quello che ci ubriachiamo, ci addormentiamo in terra, in piazza d'Italia, con la penna, così chiediamo a casa, chiediamo i soldi a casa al sindaco, niente, nulla. Non ti sei fatto visto più per niente. Che fine avevi fatto? Buonasera a tutti comunque. Io intanto lei, sempre qua, l'apparato in ascolto, come adesso. Ciao, Tonnello. Ciao, Lello, ben sentito. Buonasera a tutti. Ero sempre lì in ascolto, E fate compagnia. Che? Perché non entri? È poca voglia già, la verità. Ma io no, Sì, vabbè, se guardi quella. Vabbè, dai, ognuno sa di sé. Se non hai gana, fai bene. Vabbè, stiamo parlando di modellini, di queste cose qua, non so se ti può interessare. Non per quello no, già, sai, sono i pensieri del discorso che sono senza lavoro, è quella, dunque la voglia non è per quello, compreso. E questo è lo scacciapensieri, nel momento in cui parli non pensi. Lo so già. Mi sono mandato con mia moglie, che adesso mi piglia la bambola, radiocomandata, me lo fa tutto da sola. Speriamo che migliori quest'anno nuovo, che sia migliore invece che peggiore. A quanto pare devono diminuire le tasse, devono cercare di incrementare il lavoro, tutti i barauri. Il detto dice che non trova, Capodanno, non trova tutto l'anno. Veramente è vero. Chi non tromba a Capodanno non tromba tutto l'anno, e chi non ruba Capodanno non ruba tutto l'anno, quindi bisogna rubare, bisogna andare a qualche negozio e fare una rapina con una pistola a spulso di quelle di con lo champagne. Dice, o la borsa o whisky. Allora Gianni, ho comprato una macchinetta da qui. Indiani o quella cavolo sono, mi stava stressando la quinta, comprare io Natale, allora 10 euro, no 10 euro non te li do, costa troppo, e poi mi fa 8 euro, no, 5 euro di voi, va, ho solo 5 euro, no 5 euro troppo, poco, io pagare 6 euro, mi fa no, fatto non ce l'ho, 6 euro, 5 euro niente. Me la prima sta 5 euro, mi fa che cioè, praticamente facevo anche loro la jeans, no? Fatto la prova, di quei jeans tagliati, di pantaloncino, solo che devo fare l'orlo, inizia a fare l'orlo, arriva dove è la parte più grossa, prende mi ci spetta l'ago, non andava più, va. Poi l'ho comprato, l'ago nuovo, l'ho ripiazzato, non va, non cucisce più. Andiamo cellula. Hai bucato un lago da capo. E il lago dove l'hai trovato nuovo? L'ho trovato alla Ocean, però l'ho modificato già, e praticamente l'ingresso dove tu lo inserisci era troppo lungo, là c'è il banco mola, no? Col banco con le pietre, l'ho consumato un po', ma non va, non fa la cucitura. Non c'è prima sì, forse questo lago è troppo grosso, boh. Non è originale, normale. Vabbè, sono tutte cose che durano. Guarda, io l'unica cosa di buono che ho trovato dai cinesi è quella macchinetta che suona, è una cosa meravigliosa come suona, fare una discoteca. C'ha 2, 4, 6 casse. Adesso quando la accendi la radio se la senti anche senza antenna, cosa che le altre radio che avevo se la spostavo da una parte all'altra non si sentiva più o veniva disturbata. Questa anche senza antenna tutte le parti la senti. Io l'ho sentita, la volta sentita Antonio. Sono andati assieme a fare una commissione, mi fa, lui sente questa macchinetta e mi fa cioè questa suonava, diceva la mia suona molto molto di più, ma comunque cavolo, poi c'è una macchinetta piccolina, zocca, ecco come è forte, vabbè, costa 20, quant'è, 22, quanto costa? 25, si può mettere anche la pennina USB? Lo so, ho messo una pennina Samuele che aveva fatto lui in discoteca, a casa dice, ma avevo un impianto stereo, allucinante. Ma batteria o fa, ricaricabile? No, una batteria come quella del telefono. Tu li metti solo, c'è l'attacco come quello di, come si chiama? Un attacco USB, no? La puoi attaccare al computer, però io ho fatto una cosa, ho preso un alimentatore, l'ho attaccato all'alimentatore con l'attacco USB e lo attacco alla corrente invece che al computer. Sì. Scusate, arrivo subito. Ah, Antonello di Ossice, buonasera. Buonasera, arrivo. A te Marco e Michelino. Io tra un boccone e l'altro, tra una stanza e l'altra, sono qui all'ascolto alla fine. E vabbè, iniziate il Cervini e fai quello che devi fare. Ma cosa vuoi fare? stavate parlando di quella macchinetta che suona bene, che ho presa USB. Ascolta, già, dimmi le dimensioni, quanto è lunga? Tipo 20-25. Sarà una ventina di centimetri. Io l'ho rivista quella macchinetta. C'era anche la barca. E cos'era l'altro? Un aeroplano, può essere. Non so dove l'hai vista, io sono andato a comprarla esattamente dove mi ha detto, dove c'è Wok, a fianco. C'è quel negozio di cinesi, l'ho comprata lì. C'era azzurra e questa nera che ho preso io. Mi piaceva anche quella azzurra, però ho preferito la nera perché io l'ho messa dove c'è la stazione. E me la uso la domenica quando mi faccio il bagno, me la accendo, mi metto la musica e mi posso bagno con la musica. Ehi, suona bene, anche lì ho sentito uno stereo bello chiaro chiaro ed era quello. E solo che alla fine io mi stanco della roba e finiscono sempre nell'armadio. Tanto lo stereo c'è, quando faccio la doccia non emetto, sai, perché tra il rumore e l'acqua eccetera, alla fine non emetto. No, io ho un modo particolare, fammi bene, ci sto immerso per un bel po', perché mi devo rilassare bene. L'acqua calda, bella schiumosa, mi metto la musica e me ne sto nell'acqua calda, bello immerso per un po' di tempo. E poi ci mette il vibratore, lo pulisce. Non mi mettono il vibratore. Almeno avessi quella vasca vibromassaggio, allora sì. Non di vibratore che mettono in culo, no, quello che ti pulisce le fiati, che te lo passa, non c'entra a me. Ah, ma lo che ti mette un po' di pesci di quelli del mal morto. Il mio collega lì si è cambiato la vasca, si è messo quella con il vibromassaggio, ma è già sono gorrinato da quando c'è con la vasca, quasi quando fa bene, per i dolori, per tutto qua. E lo sai che c'è un'amica mia, sono cercato di farmi con lei, c'è la vasca di massaggio, si stai in due dagli atti, a fare ciucucciù. Tu mi stai l'altro giorno, ho detto, è mollato tuo marito, era ora, gli ho detto, almeno ci stiamo assieme, gli ho detto, dentro la vasca. E lei cosa ti ha detto? E mi ha detto, adesso sono impegnato a lavorare al bar, poi magari ci possiamo anche pensare. Ma qual è quella che lavora in quel bar, capisci a me, quello di riposo? Mi serve il buono un cane muso, cosa c'entra quella? Allora, quella che lavora a fianco ai cinesi. No, ma è quella. Guarda che cinese, c'è le bancarelle di cinese a fianco. Come fa a lavorare ormai? Come memorizzo io, sono tutte le tue amicizie, te le immagini? Lo so, già l'ho visto. Mi sono messo la luce su Facebook. Vediamo se mi dà qualche risposta qua. Sono solo abbandonato, ho scritto. io. Ma Simona, non te ne davo un paio di giaffi, eh? Sì, accidente, più che scrivere cazzate a Facebook, cosa vuoi fare? Ma ti provo a pigliare Facebook per quello che è, no? Saranno. A scrivere cazzate, è stato bello quello, la ricetta della nonna, ce ne sono tutti i giorni, cioè. Ce ne va strana a cazzo di ricetta, ma ce la fai. Mi sembra di aver pigliato un libro di ricette educato di Facebook. Ma qualche volta, poi ci metto un piatto di culi di basiliare, ci metto. Meglio quelli che le ricette della nonna, almeno chi ha problemi di coso, di aggeggio, gli si solleva, gli ho scritto. Cappa. Ehi, già, un'altra volta ho sentito uno. Ehi, mi volevo prendere la Yakuza. Ha detto, ma cos'è Yakuza? La Yakuza è la mafia giapponese. I Yakuzi. E se ne vengono da noi, sono bestavaganti certe persone. Ti dico, la birra dreghe c'è. La birra dreghe, il calavaccio. che poi mi pare si pronunci Yakuza, la mafia giapponese. Ma Yakuza da dove prende il nome? Che è questo? Lugarello Fudu, mamma come ha scritto. Fudu, ma non è Pudiche. Ah, lo sapete dove via Pudiche? Luca sta scritto, il cognome Barovaglio. Fudu, sai come ha scritto? Buonanotte, arrivederci con la tua bella salenza. Un po' che non avevo detto che c'era la chiave, punto. Magari. Ciao, il Barovaglio. Non mi avevo detto che era noto a quello con pugno. E beh, sempre facendo la recidibu così, Allora, com'è già? Migliorato che poc'anzi stavo strappando. No, non sta strappando, va bene. Va bene, va bene. Ogni tanto si fa scaldare. No, vabbè, caldo già è caldo perché l'ho acceso, diciamo, stamattina e ho provato stasera a fare un passaggio, però c'era il Mickey nel car un po' troppo elevato. E va bene, comunque la tua è stata sempre bella la radio, già va bene. Quelle radio c'hanno quel difetto lì, che se le lasci troppo strappano, se o si ingridi, anche se ingridi così. Andare, no vabbè, diciamo che ho 10-15 e portante fissa, quindi già va bene. Tanto è tutto bene, tutto bene. Tu come stai? Io non ti sentivo più, già era morto il marchetto, no, ma sentavo ogni tanto, porca miseria, entraci, tanto siamo pochi ma buoni, già lo sai. Vabbè. No, stasera, per dire la verità, volevo fare due passaggi, solo che avevo un po' di bailama in casa, tra bambini che sono eminenti alla fete, quindi. Tu, ne avevo tre io, non mia, di mia sorella, a casa, non capivo più da far culo preso, sono uscito stasera, non ce la facevo più. E sono entrato, penso che 5 e mezzo, la verità. E mi sono un pochettino rilassato, se no croccherò. Andare, chi c'è che non ho seguito? Io, Antonello Diossi, tu, Marco Condor e Pomponi. Avanti Antonio, se ci sei ancora, dai. Sono qua, ti preoccupare, a voglia. Antonello Diossi, sto dicendo. Ah, avanti a Dio Sidalia. E Luca non c'è più, buonasera a chi è entrato. C'è anche Luca, scusa Luca. Ma sono sempre qua io, ciao Dio. Ciao. Sto prendendo colpi, Ho dimenticato a Luca, sto prendendo colpi. Ho capito, sto prendendo colpi, pensavo Splatter. No, li sto perdendo. vabbè, la vece è Garrone. Già, vabbè, Luca, com'è la solita? Adesso sì, stasera è troppo talmente forte. Luca, cosa stai facendo? Via, un gara allucinante. Tutto nel combino. Adesso va benissimo, oddio. Ripeto, come mia moglie spazzola qua, magari tocca qualche pomello che non deve, magari, o miei figli si mettono a giocare, quindi tocca un attimino a registrare un po' di cose. Vabbè, già va bene, se va bene, ok. Chi è? Antonio Diossi, così. Non ha ripreso, l'abbiamo rilasciato, non ha ripreso, deve essere sta facendo qualcosa. Marco Condor, avanti. Dovevo fare una prova con Antonello, vabbè, se non riprende pazienza. Comunque, io sto usando questo apparato perché nella posizione in cui ho messo il Kenwood e quindi il relativo microfono, mi viene male premere la portante, molto male, e quindi sto usando questo apparecchio qui, almeno è il mic palmare. Appaga, vabbè, regalino che ha fuggito. Sto arrivando allora, eh? No, se state usando il Kenwood io sto chiudendo, ciao, quello ti permette. E vabbè, non so ci come c'è che sono gli apparecchi omologati. Io qui non lo sto avvisando, io uso un coso, un apparecchio del mercenario. Tu sei un vibratore, pum pum. E ti sta bene, questa è voluta tua. Cosa ti vuoi fare? Cosa fare? L'apparecchio del mercenario o vibratore normale? Il Feitong ti piacerebbe, eh? Sta arrivando, non preoccupate, vi faccio schiattare. Sono l'unico a averlo io, te lo dico io. Non vi faccio schiattare. Antone, aiuto, fammi una proposta, ti do questo. Guarda, vai, lascia saltare, se non devo neanche saltare, guarda. Tieni la cotta, guarda. Meglio il Feitong. 350 euro nuovo dalla Cina, senza toccarlo nessuno, che avere un Kenwood, lascia stare. Mi stavano dando ieri sera un coso, un 140-200 euro, non ho avuto neanche quello. Vabbè, ognuno ha il suo pianeta, cosa vuoi che ti dica? Non me, me lo mettevo in macchina. Attualmente è amico di cinesi. E fatto che non ti ci copi in mano. E guarda che, no, la verità, non è però, il che l'ho usato parecchi anni, solo che devi pensare sempre che è una roba che c'hai, un apparecchio che c'ha più di 10-20 anni, quindi non sai che come è stato trattato e cosa, se no l'avrei anche ripreso per dire, però a me piace, a me piace un apparecchio nuovo, che ce l'ho io nuovo da negozio, se di fretta, ho bruciato, se la piglia in culo ho bruciato io, cioè non voglio avere il dubbio che magari l'apparecchio è difettoso, capito, è quello che ti voglio dire, quindi è per quello che non le voglio più prendere roba così, senza offesa, io l'ho avuto io il Kenwood, è veramente un apparecchio bello, quello che è, 430, 440, 680, 140, quello che è, però io voglio un apparecchio nuovo e basta, che non sia un baracchino, che non sia un baracchino per dire che parla da 10 ai cosa, che faccia tutte le bande, che sia un apparecchio nuovo, in modo se brucia lo brucio io, se la biglia in culo, per dire, che non costi molto, però che sia nuovo, tutto lì, che faccia 4 bande, 5 bande, quelle che sono, anche per macchina, non me ne frega niente, basta che sia un apparecchio nuovo, di negozio. Secondo me, non te lo do più. Eccomi, ho cambiato apparato, Mi hai convinto, Antonè. No, io la penso così, poi vabbè, lo sai che anche io l'ho avuto io a parecchi 10-20 anni, e più che altro voglio togliere il gusto di avere un apparecchio nuovo, ho comprato al negozio e basta che sia nuovo, e cioè anche se non è Kenwood, per dire, sarà un'altra marca, sei quasi in banda, che ci abbia, faccia tutta la KF, anche la vuoi KF, quello che è, non che sia nuovo, lo voglio prendere non voglio prendere un gusto, cioè è nuovo, so per certo se lo guasto e se c'è qualche difetto glielo posso mandare indietro, non è che gli mando un apparecchio magari che magari fa un difetto e poi cosa mi dice quello, te l'hai pigliato, arrangiati, il discorso è quello. Il problema, Antone, è cosa comprare e dove comprarlo. C'è la pazienza è la virtù dei forti, non ti preoccupare. C'è la pazienza, io sto mettendo i soldi da parte adesso. Una volta che ho quella cifra lì, magari non è neanche quello e me ne prendo un altro, però meglio averlo, hai capito il discorso così com'è. Quindi non me la futi nuda. Mi sto mettendo i soldi da parte, 100 euro ogni mese. Quello che è. quando dico, cioè, per dire, 700 euro, cosa c'è con 700 euro? C'è quello, mi prendo quello, è nuovo, da negozio, per dire, magari non lo sapevo neanche usare, quello che è, perché è un casino, tra i menu, sotto menu e cose del genere, però è nuovo, capito, quello, ciò che ti voglio dire è quello. Se tu che avevo un apparecchio di 20 anni, l'ho già avuto, voglio un apparecchio nuovo. Non mi interessa a me avere un... quanti possono quelli di apparecchi che fanno 26, 30 MHz, non mi va bene, no? Io voglio un apparecchio che faccia 10, 20, 40, 80, eccetera, eccetera, 144, 50, quello che è. Un apparecchio che faccia tutto. Ci sono quel pezzo lì. Che ci sono. Vabbè, aspetta Antonio, fai passaggi brevi, se no non posso intervenire. Ma nuovo, la roba nuova costa un bel, anche un normale HF, a quanto si trova? Non meno di 600 euro, credo. Che passa a mettere i soldi da parte? Qual è il problema? Non costa niente, non sto morendo io per comprarmi l'apparecchio. Ti metto 100 euro da parte ogni mese. Ho messo fortuna di buona cifra per dire, ma lo vedo ordino, se no se arriva quella panicola mi ordino quello, è andante, cosa mi ne affronti a me? Se va bene, funziona bene, solo figlio, già c'è il caso della mondetta vicino. Magari quel radioattore se ne vuole disfare, chi lo sa? No, cosa me ne faccio? Non sarà il matto, no. No. C'è una pelle prima, ma quella nuova. Una cosa è essere nuova, l'altra è avere... Cioè, comprate roba a seconda mano, non mi piace, Marco. Ci sono gli apparecchi che fanno HF e anche VU. Quindi, non costano neanche molto adesso, per dire. Nuovi, seminuovi, ce ne sono quanti ne vuoi, cioè a me mi interessa un apparecchio nuovo. Il problema è saperlo usare, qui ci sono il menu, sotto menu, metterci le memorie, metterci fargli le tarature in AM, in banda laterale, e poi c'è il sacco di altre cose, capito? Oggi ho visto un apparecchio veramente bello, da che l'ultimo uscito è... Cazzo, sembra avere un computer in mano, Ne ha pochi di tastini, cazzo, è un casino, guarda. Sembra avere un computer in mano, il computer che ho io, c'è un sacco di roba, fa un sacco di funzioni, quindi è bello, l'ha pagato parecchio, la verità è che l'ha pagato parecchio, però è bello, non posso dire niente. Purtroppo con i video non ci sono mai, non c'è uno stipendio di 3-4 mila euro come i cosi, bisogna che mi iscrivo al Movimento 5 Stelle, però bello, almeno 6 mesi di stipendio mi vanno bene per dire, però dirammelo, ma non è quello il caso, comunque una cosa diciamo media va bene, no? Purtroppo adesso Antonio i nubi sono tutti menu, sotto menu, c'erano occasioni e funzioni che poi in 27 sono inutili. Il tuo non era male perché 140, 680 sono i più semplici da usare in 27, senza frontoline, menu e sotto menu, basta trovare la posizione giusta, mag gain ed è fatta per dire, però tu lo vuoi nuovo e quindi bisognerà cercare un modello adatto. Va bene, chi c'è rimasto qua? Guarda, sono innamorato di quello cinese, dimmi quello che vuoi, 400 euro ce l'ho disponibile, però devo trovare la persona giusta, voglio quello e mi sono innamorato di quello, non c'è niente da fare. Quando tutti i fissi di una ragazza che la vuoi bionda con gli occhi celesti per dire che c'ha le tette come ti piace a te, non è che ti presenta un amico, dice pigliati questa cazzo, questa ce l'hai a Sassari, ma tu lo fai di quella lì cazzo che abita all'Istano, tu quello dici no, a me mi interessa quello dell'Istano e voglio quella per dire, non mi costa niente, mi faccio un viaggio, mi faccio quello che devo fare e poi torno. che così ho fatto io. Vabbè. Sì, lo so, ma poi che ne dica qualcuno, è un ottimo apparato, ha filtri giapponesi e so che non ha il VFO, la sintonia a tasti, ma alla fine anche io posso sintonizzare a tasti qua con i canali, per dire, non è che cambi molto mi alla fine. Va bene, chi c'è rimasto? Gianni, Luca, Antonio Di Rossi, chi c'è rimasto? Visto? A fare passaggi lunghi cosa succede? Deve farti fuggire tutti. La prossima volta non parlo di baracchini, parliamo di donne. Ehi, anche io vorrei provare la cinese, la donna però, non il baracchino, l'HF, una donna cinese bisognerebbe per fare. Ma c'è bisogno di avere una donna cinese, no? Che è anche italiana qua. Sono in gabba, la verità, neanche te l'aspetti. Sì, lo so, ma le italiane sappiamo già come vanno. Invece mi piacerebbe vedere che tenuta di strada ha una cinese, capisci a me? Che tenuta di strada c'è? Basta chiamare... Ascolta, fa la cosa. Chiama lì Fen Fen, ci parli, chiedi l'amicizia. E così io me lo farò amicizia, se ti vuole te la sposi, se no pazienza, cosa vuoi ti dici? Cosa vuoi ti dica io? Non ho altri gli cinesi per il momento. Sì, ma come ben saprei non uso Facebook, Antonè. Anzi sono stupiti, come mai non usi Facebook? Perché è un covo di virus, dice Ramidi, che ti è sconosciuto che ti chiede amicizia. Cazzo sì, per dire, no? Arriva uno, ciao, non mi piace questa roba promiscua, capito? Una volta quando si andava in piazza, le amicizie le facevi in piazza, non virtuali. Cosa vuol dire virtuale? Le amicizie le facevi dal vivo, non col computer, è un altro mondo. Sì, ma a me perché non credo sempre come l'amicizia, non i maschi, me lo spieghi? Non lo so, ma i maschi tendono a chiedere alle donne, le donne e i maschi, sarà per quello. Sì, ma io non ho mai chiesto a nessuno, sono solo loro che chiedono a me. Sai quante ragazze spagnole ci sono? C'ho io nel... quindi, ne ho parecchie ragazze spagnole, per dirti. Quindi, se ti sto dicendo poi quel motivo lì, tu chiama... Mettiti una donna, fa quello che vuoi, mettiti pacciocca, fa cosa ne so io. C'è la donna e c'è la vlog. La stanza è piena. Ce ne sono 3 o 4 che stanno cercando quell'aggeggio, cazzo. Ma lo sai perché la gente usa Facebook? C'è gente che non sa mandare un'email, capito? Per contattare una persona, non sa usare un'email. La cosa più stupida di questo mondo. Allora usiamo Facebook, capito? Ma non mi fai parlare. Quindi proprio io mi ho dato l'email, ho detto che ho solo sconsolato, mi volevo suicidare, adesso vediamo chi mi risponde, cazzo. Che mi faccio un paio di risate. Minchia, le 11.05, Antone, devo scappare, dai. Ciao Antone, buonanotte, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. Devo chiudere per il caso di forza maggiore. Ciao a tutti. Ciao Marco, ci sentiamo domani. Fammi bene, buonanotte. Mi raccomando, non fare manie con salotte. No, penso solo a te. Un bacione. Te che fresco, chiama Falcone, va a fanculo. Falcone. Appunto. Ci sentiamo domani di sera, adesso domani ti devo fare un lavoro lì a un condominio, quindi vi interrogo solo a una. Allora domani sera, se non c'è niente da fare, passi qua a casa, ci vediamo e ci beviamo una cosa e così ti distrai con qualche ragazza. Adesso l'ho cambiata, non c'è più la ragazza che c'era prima con il mio figlio. quello che tu dico vicino, che lo vado adesso, molto più giovane, quindi c'è più possibilità, eh? Un altro più giovane di quella, già era giovane quella, ma io non sono neanche un maniaco, mi. E che c'entra? Se fai conti, si lavora, cosa vuoi che ti dica io? Sono tipo un'altra amica mia e quindi magari vi piacete, uscite assieme, non lo so, fate due figli, non dico di uno, ma un paio te le fai, cazzo. Va bene, ci sono gli assegni, quindi fate due in uno. Ascolta, dimmi in breve, è vero che non si può usare l'amplificatore d'antenna per la TV? Sì, è vero che non si può usare. È vietato, assolutamente è vietato usare l'amplificatore d'antenna TV. A meno che non sia mancato c'è. Se è mancato c'è è discorso diverso. Però non si può usare, te lo sto dicendo, per quel motivo lì. E non si può usare un amplificatore. Partendo da quella lì, la 4F, il primo è un'antenna di quelle HD, ci sono adesso per le seconde e basta, non ci vuole altra. A meno che non usa come faccia VU, se la via in culo va bene. Ma sai, quelle antenne vanno bene per il satellite, perché lui il satellite per gli animatori. Trasmette riceve quelle antenne localistiche che vendono a cosa? Da Bricome, costano 9,90. Piace una di quelle e sei a posto. E trasmette riceve. Ah sì, ma vabbè, no, ma la logica, perché è vietato l'amplificatore? Non perché lo dice la legge, ma qual è il motivo logico? Si sa? Perché non si può usare, a parte che l'amplificatore non è filtrato prima di tutto, per tutta la mondezza. Ci vuole un amplificatore che sia marcato c'è. Se è marcato c'è, lo puoi anche piazzare. Se sei in un punto proprio debole, ma sei di fronte a Monte Oro, cosa ti fa l'amplificatore? Non ti fa tutto niente. È una cosa inutile. Ti amplifica i segnali sia VU, quelli che sono, e poi tutta la montagna che c'è intorno, scarica elettrica eccetera eccetera, capito? Sì, quello lo so Antonio, ma volevo sapere il motivo logico, il motivo pratico, perché non si può usare un amplificatore, per quale motivo? Perché non bisogna assassare, a meno che non sei in una zona che sei proprio dentro un fosso, allora devi usare un amplificatore sia omologato, marcato c'è. Se per caso non c'è segnale, allora cosa si fa? Si fa la domanda per un ripetitore, come si fa di solito, si paga naturalmente, lo sai, la RAI, e quindi si fa la domanda per il ripetitore, come ha fatto in quel paese che non prendeva manco la televisione, il telefonino, automaticamente ti installa un ripetitore e tu paghi le tasse, tutto lì. Un ripetitore di che? Un ripetitore TV? E che senso ha? No, guarda, nessuno mi sa dire il motivo porco valido, il motivo vero perché non si può mettere un amplificatore. Cioè ci sarà un perché, una cosa logica, che se uno chiaramente se lo mette solo se vede male, se vede bene non se lo mette, ma perché vietarlo a priori? Allora, l'amplificatore lo puoi installare, basta che sia un amplificatore omologato, filtrato, che non, in pratica che non amplifichi altre cose, hai capito? Tutto lì, ma quello di pensare nei paesi dove c'è un buco, per dire come la cimenteria, allora va bene, pigli e lo installi, però in città l'amplificatore proprio non è che te ne fai molto. In città si usano le centraline amplificate che siano omologate, tutto lì, poi filtrate, che non amplificano i segnali come si faceva una volta, quando mettevi in moto per dire la Vespa si vedevano le strisce. capito dove siamo arrivati, se non lo puoi neanche installare quelli. Vabbè Antone, da adesso chiudo, sentiamo le prossime. No, perché noi su non avevamo antenna, capito? Ce l'abbiamo solo sul terrazzino. Io non prendo niente in camera, o meglio non prendevo niente. Mamma ogni tanto prendeva qualche canale quadratato. Ho preso un amplificatore dai cinesi, che non è di quelli che hai l'alimentatore giù e l'amplificatore sull'antenna, no, direttamente le attacchi la corrente, cioè l'ingresso antenna e tre uscite. Di lusso Antonio, prima non vedevo quasi niente, adesso vedo tutto. Quello amplificatore è diverso, quello è un amplificatore di linea, che non c'è, aveva un accidente, comunque non ho neanche bisogno, la verità, di quello, perché io ho installato, se tu vieni a casa e te lo faccio vedere domani, ho messo quell'antenna che c'è tu, l'ho messa sopra il tetto, ho fatto la discesa direttamente in casa mia e vedo in camera la vedo e in cucina vedo benissimo, capito? Con quell'antenna lì. Addirittura se devo agganciare a mio fratello c'è l'amplificatore suo di quell'antenna che si installa sopra e tanto che l'ha mandato dentro casa e c'hai 30 libri di guadagno, hai capito? E non c'è nessun problema, c'è bisogno di avere l'amplificatore di linea perlomeno. Quindi se c'è un amplificatore di linea vuol dire che c'hai allora un problema nell'aggancio del coso, che c'hai il segnale basso. Ecco perché è fatto così. Ma se tu agganci sull'antenna del baracchino con l'antenna lì, ti metti il cavo, ragazzi, non sai quanti televisori puoi attaccare, ne puoi attaccare anche 6, ne puoi attaccare e non succede niente. È fatto strano, è che io l'antenna alla fine ce l'ho quasi vicino alla strada, come altezza è quasi all'altezza della sede stradale, per dire. Abbiamo due uscite sulla scatoletta, aspetta, due uscite sulla scatoletta, una va in camera da pranzo, un'uscita, e quella va bene, una va in camera di mamma, si sdoppiava compartitore, una da mamma e una in camera mia. Allora io in camera mia non prendevo niente, ho messo quella a fare al posto del partitore che ha un ingresso e tre uscite e la TV la vedo di lusso, sono solo questo, 4 euro. Io so che costa così, non dirlo a me, poi invece io ho speso di meno, ho messo l'antenna sopra il tetto, ho fatto la calata e ho 3 utenze adesso. Adesso appena c'è un momento di pausa opportuno, collego anche mio fratello e mi esco nel male del palazzo, perché ogni tanto sai cosa fanno quassù. Sai, sale qualcuno e comincia a regolarsi prima l'amplificatore della WF e poi quello della V, lo mette a maletta, hai capito? Perché loro dicono non vere. E quindi a un certo punto ho fatto il buco l'altro giorno, ho preso e mi sono collegato io, adesso. E ho collegato in pratica la camera a letto, la camera in salone, adesso mi devo collegare io, di qua in questa camera, perché ci volete un partito da due in pratica, perché c'ho io qui il satellitare, cioè quel partitore che fa più due satellitare e fa con un cavo unico, quindi ci metto così, dopodiché con l'amplificatore mi metto l'amplificatore giù a piano di sotto e collego mio fratello e così siamo fuori dal condominio. Di quello non è fatto nulla, capito? E poi lì ti puoi collegare anche per dire altre 4 utenze, perché io abitavo prima al centro storico, ci ho messo 120 metri di cavo e ho visto si vedeva benissimo con questa antenna qua, quella spina di pesce che ci avevo pensato io, quella modello vecchio, figurati, non quella modello nuovo, quella modello vecchio. Siccome qua c'è quella modello nuovo che c'ha l'attacca a piellino normale, quindi va bene, è anche più corta di quella lì. Beh Antonio, noi abbiamo fatto questa prova, è una prova per evitare di comprare antenne, di comprare cavo, di fare altra calatta. Capito? Una prova che abbiamo fatto e funziona, per adesso a noi va bene così, poi quando se decideremo la metteremo in terrazzo. Uia, sto cominciando a perdere colpi, essere stanco, aspetta. 9 watt, ancora deve scaldare, purtroppo ho fatto l'errore di spegnere questo apparato e si è raffreddato un po', ma vabbè, tanto vado via adesso. Antonè, di nuovo buonanotte, ci sentiamo le prossime, appena, siccome c'è mamma che è sempre a letto quasi, lasciarla sola magari non fa, perché le devo portare tutto io, capito Antonè, appena posso ci vediamo, però così ti faccio vedere l'accordatore nuovo qua appena lo prendo. E comunque fallo alzare, fallo reagire. Marco, sta succedendo? Mamma, guarda, sono stato io 4 giorni, ti sto dicendo, mamma è caduta in terra e la viola in faccia, te lo sto dicendo, da spavento era. Sono stato male io, la verità, perché sono stato male io, quindi fare reagire, farlo alzare e non farla lasciare coricata, farla svegliare, la fai, farla camminare, fargli fare un giro, portalo dove vuoi, anche a fare la spesa, cosa te ne frega, l'importante che la fai passeggiare, hai capito? Dammi retta, perché io ho avuto la mamma da poco, adesso è già 5 volte che è caduta, e quindi ogni tanto questo la piglio male, la piglio la retta, non so quando è il giorno, quando è la notte, devo subiamo le altre mattine, 3:30 del mattino, sollevarla, hai capito? Quindi è un incubo per me, capito? Quindi non farla diventare una cosa del genere, svegliala, farla passeggiare, fa quello che vuoi, farla reagire in pratica, capito? Portala a passeggio, perché il giovane ha bisogno di uscire, che è meglio. È già lucida lì, però non ha voglia, capito? Le piace stare a letto. Pochino, perché c'ha questo peso alla testa e testa vuota, vabbè, la capisco, anche a me è capitato, ma è una lei l'ha presa più male, vabbè. Antonio, da, chiudo effettivamente, sentiamo le prossime, dai. Comunque, se ti capita di andare su internet, guarda MFJ945E. D'accordo, e vabbè, in realtà ci vediamo questi giorni, quindi non c'è problema. Tu appena puoi entra a baracchino, poi già solo ascolto io. Adesso accendo il baracchino, appena rientra a casa lì accendo il baracchino, prima vai, ci siamo, aspetta cosa vuoi scendere giù, fare la spesa, eccetera, eccetera, capito? Ero, come per dire, un tipo bandante. Adesso meno male, sono un pochettino più libero, quindi al limite noi ci vediamo bene la cosa, ne parliamo e eccetera eccetera, così mi ordini quel pezzo, ti do i soldi e sono a posto. Dopodiché diremo piano piano quell'altra roba, non è che posso dirmi tutto di colpo, anche perché voglio mettermi a posto la moto e perché mi serve la moto, Marco, in modo da poter uscire e muovermi eccetera eccetera, capito? Bene, ci siamo, mi. Ok, stavo adocchiando ancora quel transverter 40-45 metri, ma non so se sia buono, perché sai, Antonio, messo in macchina con Superstar 3009 fa, posso ascoltare quelle bande lì, c'ho l'antenna HF e ascoltare, magari non solo, chi lo sa. Trasmetto è bello, ne ho visto uno oggi, nuovo, l'ho visto, non si usa più al limite da quella roba lì. Eia, non si usa, però sai com'è, in macchina quello te lo puoi mettere, è piccolino, insomma, questo in macchina no. Io, cazzo, l'antenna ci vuole anche per la macchina, ci vuole l'antenna 11:45, quindi il discorso non è che anche se vuoi piatti cosa ti devi fare, se vai nuda, dico io. Però, basta girarti già i pezzi e che lo utilizzi per una cosa del genere. Poi vabbè, c'è la parecchio, non è che tu hai fatto niente adesso di quella roba lì, tu pensi a casa, cosa dicevo, ti faccio l'antenna e sei a posto, appari dove vuoi. No, Antone, ti ho detto, ma mi segui, che l'antenna veicolare ce l'ho, fa da 1,8 a 430 MHz, fa tutte le bande HF, fa 50 MHz, VHF, VHF, tutto fa, e quelle antenne apprese e calcolate, mi sposti il ponticello in base alla banda. E non la proviamo, non costa niente, saliamo a Usio, che attacco c'ha con l'antenna? Allora, quella è un attacco PL e io la uso su base magnetica larga da 16 cm. Certo, con PL non c'è problema. La proviamo, andiamo a uso o la proviamo con l'antenna, così ti pigli il gusto. Abusivo. E abusivo è quello che dubba. Non siamo ladri, quindi ci possiamo divertire un pochettino. Poi si dice ma non si fa. Va bene. Esso Maria, e cosa stanno facendo? Ah no, un telefilm strano c'è, praticamente c'era una donna che pesava 300 kg, l'hanno dovuta seppellire con la ruspa, con la ruspa. Che è la ruspa? È un accessore. No, veramente, mi è quello su LA5. Era tipo 300 kg, ma cosa ha mai vista? La barra è larga 2 o 3 piazze, figurati. È bello, E da me? Mi dice che la risposta. Che bastardo, cazzo, ma con culo mi ha inviato quel paracolo. E cosa è successo? Che mi ha inviato un culo. Non ti capisco, Antonè. Che Luca, mi hai inviato un culo. Ah, un culo, bello, bello. Batteria femminile. Sì, sì, con la... con pirintolo bianco. La verità. È un poco, guarda. Beh, bello. Un bel culo. Con pirintolo bianco e le... vabbè, da dietro naturalmente. E il portatetto è rosa. Anzi no, rosa, viola. Aspetta che mi faccio una foto al culo io, ma te la mando. No, no, guarda, guardalo tu adesso. Come con la fotografia, guardatela tu. Ma scusa Antonè, cosa devo guardare? Non ho Facebook, il computer è spento, cosa devo guardare? Io non posso vedere quello che vedi tu, no. Fatti questa cosa a Facebook, vai a bocchi di cazzo qualche volta, mettici un numero falso, fai quello che vuoi. Basta che guardi, cazzo di tanto. A me ti diverti. Sai quanti culi ho messo io, brasiliani? Ma belli me. Vabbè, ma Facebook... preferisco parlare al baracchino, Antonio, te l'ho detto, il computer per comunicare poco mi piace, a meno che non sia per lavoro, oppure email. Vabbè, ma io faccio apposta con Luca di tanto. Mi diverto così, non è che devo stare a girarmi le balle con gli altri, no? Mi ha fatto assieme le ricette della nonna. E poi mi, detto tra noi, una volta ci usava IRC. IRC per comunicare come chat e prima ancora si chattava tramite Telnet, che non sai cos'è ma te lo spiego un'altra volta. Un altro è Facebook. c'è gente anche che si fa vedere che fa le cele e poi c'ha soldi per pagarsi gli apparecchi, quindi figurati tu, hai capito? Non c'è soldi per pagarsi i baracchini che deve riparare, quindi c'è un sacco di gente, è come il baracchino, dice ah, ho comprato un Ferrari, però non c'è da pagare la roba per te, per Dio. Io. Ma perché non fanno i tablet col nome Alan 48, il tablet Alan 48. L'altro giorno ho visto una, chiama subito, stanno regalando dei cellulari in oro e approfittale, capito? E invece cosa cazzo era? L'abbia la Barogu era. Natalia l'ha mandata. Sì, è pieno di truffe e di imbrogli, sai quante me ne arrivano con le mail? Truffe nigeriane, truffe da altri paesi, Brasile, Olanda, Spagna, di tutto, Russia poi, non ne parliamo. Ma è chiaro che sono fregature, solo un gonzo ci casca, capito? Adesso ci metto io il coso, approfittale, regaliamo 100 euro di spesa, manda subito un link, un email di quello che a questo indirizzo e ti sarà dato la sede dove andare a ritirartelo. Oh, va bene Antonio, sto schiattando, dai, sono stanco, spengo, dai, ci sentiamo, buonanotte. E io d'accordo, ci sentiamo domani, ma dimmi te. Un culo se lo vedi domani, se va di là. Un'altra di canna che ha, diciamo, se lo cavolo l'ha presa Luca.